Anche quelli che non la conoscevano erano messi sull'avviso da qualcosa di singolare e di eccessivo, o forse da una radiazione telepatica, come quelle che scatenavano gli applausi tra la folla ignorante nei momenti in cui la Berma era sublime. Che doveva trattarsi di una persona conosciuta, si chiedevano «chi è?». Interrogavano a volte un passante o cercavano di ricordarsi com'era vestita per offrire un appiglio agli amici più esperti che li avrebbero subito ragguagliati. Altri ancora, fermandosi quasi di colpo, dicevano «sapete chi è? Madame Swann. Il nome non vi dice niente? Odette de Crécy?». Odette de Crécy, già, infatti mi dicevo «quegli occhi tristi». Ma, detto fra noi, non deve essere più nel fiore della giovinezza. Ricordo di essere andato a letto con lei il giorno delle dimissioni di MacMahon. Credo che fareste bene a non ricordarglielo. Adesso è Madame Swann, la moglie di un socio del Jockey Club, amico del principe di Galles. Del resto è ancora splendida. Sì, ma se l'aveste conosciuta allora com'era bella... Abitava in una palazzina molto strana, piena di cineserie. Ricordo che eravamo fuori dalla grazia di Dio per le grida degli strilloni. Ha finito per farmi alzare. Senza sentire i commenti, avvertivo attorno a lei il mormorio indistinto della celebrità. Il mio cuore batteva di impazienza al pensiero che tra un istante tutte quelle persone, tra le quali notavo con dispiacere l'assenza di un banchiere mulatto dal quale mi sentivo disprezzato, avrebbe visto il giovane sconosciuto al quale non prestavano alcuna attenzione, salutare, senza conoscerla in verità, ma mi credeva autorizzato a farlo perché i miei genitori conoscevano suo marito e io ero compagno di giochi di sua figlia, quella donna la cui reputazione di bellezza, di cattiva condotta e di eleganza, era universale. Ma ecco, ero già vicinissimo a Madame Swann, e allora mi profondevo in una tale scappellata, così estesa, così prolungata, che lei non poteva fare a meno di sorridere. Qualcuno rideva. Quanto a lei, non mi aveva mai visto con Gilbert, non sapeva il mio nome. Ai suoi occhi ero semplicemente una guardia forestale del Bois, o il battelliere, o le anatre del laghetto a cui lei gettava del pane. Uno dei personaggi secondari, familiari, anonimi, altrettanto privi di individualità, alla stregua di una comparsa di teatro delle sue passeggiate al Bois. Certi giorni, se non l'avevo vista sul viale delle Acace, mi capitava di incontrarla sul viale della Reine Marguerite, dove vanno le donne che vogliono restare sole o aver l'aria di cercare di esserlo. Non restava sola per molto. Presto veniva raggiunta da qualche amico, non di rado con una tuba grigia, che io non conoscevo, e che conversava a lungo con lei, mentre le loro due carrozze li seguivano. Questa complessità del Bois de Boulogne, che ne fa un luogo artificioso e, nel senso zoologico e mitologico del termine, un giardino, l'ho ritrovata quest'anno mentre lo attraversavo per andare al Trianon, uno dei primi mattini di quel mese di novembre che a Parigi, nelle case, l'approssimarsi e l'esaurirsi dello spettacolo dell'autunno, che si consuma così presto da non lasciare il tempo di assistervi, danno una nostalgia, una vera febbre di foglie morte che può arrivare fino a impedire di dormire. Evocate dal mio desiderio di vederle, nella mia camera chiusa, da un mese si interponevano fra il mio pensiero e un oggetto qualsiasi a cui rivolgessi la mia attenzione e turbinavano come quelle macchie gialle che a volte danzano davanti ai nostri occhi qualunque sia la cosa che guardiamo. E quel mattino, non sentendo più la pioggia cadere come i giorni precedenti, vedendo il bel tempo sorridere agli angoli delle tende, tirate come agli angoli di una bocca chiusa che lascia trapelare il segreto della sua felicità, avevo sentito che quelle foglie gialle avrei potuto guardarle trafitte dalla luce nella loro suprema bellezza e non potendo più trattenermi dall'andare a vedere degli alberi, così come un tempo, quando il vento soffiava troppo forte nel camino, dall'andarmene sulla riva del mare, ero uscito per andare al Trianon passando per il Bois de Boulogne. Era allora e la stagione in cui il bois sembra forse più molteplice, non soltanto perché è più suddiviso, ma anche perché lo è in modo diverso. Anche nelle zone scoperte, dove si abbraccia con lo sguardo un grande spazio, qua e là, contro le masse scure e lontane degli alberi ormai privi di foglie o che avevano ancora le loro foglie estive, una doppia fila di ipocastani colorati di arancio sembrava, come in un quadro appena iniziato, la sola cosa che il pittore avesse dipinto prima di cominciare ad aggiungere il colore sul resto, e dispiegava il suo viale in piena luce per la passeggiata episodica di personaggi che sarebbero stati aggiunti solo più tardi. Più lontano, là dove gli alberi erano ancora ricoperti da tutte le loro foglie verdi, uno solo, piccolo, tozzo, cimato e caparbio, scuoteva al vento una rozza capigliatura rossa. Altrove si era ancora al primo risveglio di quel mese di maggio delle foglie, e quelle di un Ampelopsis, meravigliosa e sorridente come uno spino rosa d'inverno, erano tutte in fiore fin dal mattino. E il bois aveva l'aspetto provvisorio e fittizio di un vivaio o di un parco dove, per interesse botanico o per la preparazione di una festa, siano stati appena sistemati, in mezzo ad alberi di specie comune non ancora trapiantati, due o tre specie pregiate dal fogliame favoloso e che sembrano creare intorno a sé un vuoto, dare aria, sprigionare luce. Era la stagione in cui il Bois de Boulogne rivela un'infinita varietà di essenze e giustappone il maggior numero di parti distinte in un composito insieme. E n'era anche l'ora, dove gli alberi conservavano tutte le loro foglie, sembravano subire un'alterazione della loro materia a partire dal punto in cui erano lambiti dalla luce del sole, quasi orizzontale al mattino, come lo sarebbe ridiventata qualche ora più tardi, al momento in cui, nell'incipiente crepuscolo, si accende come una lampada, proietta a distanza sul fogliame un riflesso artificiale e caldo, e fa fiammeggiare le foglie più alte di un albero che resta il candelabro incombustibile e opaco della propria vetta incendiata. Qui si spessiva come mattoni e, come in una muratura persiana gialla a disegni blu, cementava grossolanamente contro il cielo le foglie degli ipocastani. Là invece le stagliava contro il cielo, verso il quale contraevano le loro dita d'oro. A mezza altezza di un albero rivestito di vite vergine, innestava e faceva sbocciare, impossibile da distinguere nettamente in quell'abbagliante sfolgorio, un immenso mazzo come di fiori rossi, forse una varietà di garofano. Le diverse parti del bois, meglio confuse d'estate nello spessore e nella monotonia della verzura, venivano ad essere più sgombre. Spazi più chiari ne lasciavano vedere quasi ovunque l'accesso, o meglio, un fogliame sontuoso le segnalava come un'orifiamma. Si distinguevano, come su una mappa colorata, Armenonville, il Pré Catalan, Madrid, il Champ des Courses, le rive del lago. A tratti spuntava anche qualche costruzione inutile, una grotta artificiale, un mulino, a cui gli alberi scostandosi facevano posto, o che un prato metteva in risalto sulla sua morbida piattaforma. Si sentiva che il bois non era soltanto un bosco, ma rispondeva a una destinazione estranea alla vita dei suoi alberi. L'esaltazione che provavo non era provocata soltanto dall'ammirazione dell'autunno, ma da un desiderio. Grande fonte di una gioia che l'anima sente dapprima senza riconoscerne la causa, senza comprendere che niente di esterno la motiva. Così guardavo gli alberi con una tenerezza insoddisfatta che li superava e si dirigeva a mia insaputa verso quel capolavoro di belle donne a passeggio che si racchiudono ogni giorno per qualche ora. Andavo verso il viale delle acacie. Attraversavo fustaie dove la luce del mattino che imponeva loro nuove suddivisioni potava gli alberi, accoppiava i diversi tronchi e componeva dei bouquet. Attirava a sé con destrezza due alberi, Ricorrendo alle potenti cesoie del raggio e dell'ombra, tranciava a ciascuno metà del tronco e dei rami, e intrecciando le due superstiti metà, ne faceva un unico pilastro d'ombra che delimitava l'area soleggiata all'intorno, o un unico fantasma di luce di cui un reticolo d'ombra nera delineava il fittizio e tremante contorno. Quando un raggio di sole indorava i rami più alti, sembrava che, intrisi di una umidità scintillante, emergessero soli dall'atmosfera liquida e colore smeraldo in cui l'intera fustaia era immersa come sotto la superficie del mare. Gli alberi, infatti, continuavano a vivere la loro vita propria, e quando restavano privi di foglie, essa brillava ancor più sul rivestimento di velluto verde che avvolgeva i loro tronchi, o nello smalto bianco delle sfere di vischio disseminate sulle cime dei pioppi, rotonde come il sole e la luna nella creazione di Michelangelo. Ma costretti da tanti anni, come per una sorta di innesto, a convivere con la donna, essi mi evocavano la driade, la bella mondana rapida e variopinta che ricoprono al passaggio con i loro rami e la obbligano a sentire come loro la potenza della stagione. Mi ricordavano il tempo felice della mia fiduciosa giovinezza, quando accorrevo avidamente nei luoghi dove si sarebbero realizzati per qualche istante capolavori di eleganza femminile tra le fronde inconsapevoli e complici. Ma la bellezza che gli abeti e le acace del Bois de Boulogne facevano desiderare, più conturbanti in questo degli ipocastani e dei lillà del Trianon che avrei visto fra poco, non era fissata al di fuori di me, nei ricordi di un'epoca storica, in qualche opera d'arte, in un tempietto dedicato all'amore, ai cui piedi si ammucchiano le foglie palmate d'oro. Raggiunsi le sponde del lago. Mi spinsi fino al tiro pigeon. L'idea di perfezione che portavo in me l'avevo attribuita allora all'alta foggia di una vittoria, alla snellezza di quei cavalli furiosi e leggeri come vespe, dagli occhi iniettati di sangue come i crudeli destrieri di Diomede, e che ora, in preda a un desiderio di rivedere ciò che avevo amato, non meno ardente di quello che tanti anni prima mi spingeva su quello stesso cammino, volevo avere di nuovo davanti agli occhi, nel momento in cui l'enorme cocchiere di Madame Swann, assistito da un piccolo groom alto un pugno e infantile come San Giorgio, tentava di domare le loro ali d'acciaio che si dibattevano sgomente e palpitanti. Ahimè, non c'erano ormai che automobili affidate alla guida di meccanici baffuti accompagnati da imponenti valletti. Per sapere se erano così affascinanti come li vedevano gli occhi della memoria, volevo confrontare con gli occhi del corpo quei minuscoli cappelli femminili così appiattiti da sembrare una semplice corona. Adesso erano tutti immensi, coperti di frutta e fiori e vari uccelli. In luogo dei magnifici abiti nei quali Madame Swann aveva l'aria di una regina, tuniche greco-sassoni mettevano in risalto, con pieghe alla tanagra e a volte stile direttorio, chiffon liberty disseminati di fiori come carta da parati. Sul capo di uomini che avrebbero potuto passeggiare con Madame Swann nel viale della Reine Marguerite, non ritrovavo né la tuba grigia di un tempo, né altro tipo di cappello. Andavano tutti in giro a testa scoperta. E non avevo più nessuna fede da infondere in tutte quelle nuove componenti dello spettacolo per dar loro la consistenza, l'unità, la vita. Mi passavano davanti in ordine sparso, a caso, senza verità, prive in se stesse di alcuna bellezza che i miei occhi potessero tentare di comporre come un tempo. Erano donne qualsiasi, nella cui eleganza non avevo alcuna fiducia e le cui toilette mi sembravano insignificanti. Ma quando una fede sparisce, le sopravvive e via via sempre più vivace, per mascherare il vuoto del potere che abbiamo perduto di conferire realtà alle cose nuove, un attaccamento feticistico alle cose vecchie che essa aveva animato, come se in quelle, non in noi, risiedesse il divino e la nostra incredulità attuale avesse una causa contingente, la morte degli dèi. Che orrore, mi dicevo, come si fa a trovare in queste automobili l'eleganza degli equipaggi di una volta? Può darsi che io sia ormai troppo vecchio, ma non sono fatto per un mondo in cui le donne si infagottano in abiti che non sono neppure di stoffa. A che scopo venire sotto questi alberi se non c'è più niente di ciò che si adunava sotto quei delicati fogliami rosseggianti, se la volgarità e la follia hanno rimpiazzato ciò che incorniciavano di squisito? Che orrore! Oggi che non c'è più eleganza, la mia consolazione è di pensare alle donne che ho conosciuto. Ma delle persone che oggi contemplano queste orribili creature sotto i loro cappelli coperti da una voliera o da un orto, come potrebbero anche solo concepire l'incanto di vedere Madame Swann con una semplice cuffietta color malva o un cappellino da cui spuntava tutto impettito un unico fiore di iris? Sarei mai riuscito a far loro intendere l'emozione che provavo certe mattine d'inverno nell'incontrare Madame Swann a piedi, avvolta in un mantello di lontra e con in capo un semplice berretto da cui spuntavano come lame due penne di pernice, ma attorno alla quale l'artificioso tepore del suo appartamento veniva evocato nient'altro che dal bouquet di violette premuto sul suo corsetto e la cui vivida e azzurra infiorescenza sullo sfondo del cielo grigio, dell'aria gelida, degli alberi, dai rami spogli, aveva lo stesso incanto di considerare la stagione e il tempo come una semplice cornice e di vivere in un'atmosfera umana, l'atmosfera di quella donna che avevano nei vasi e nelle fioriere del suo salotto accanto al fuoco acceso, di fronte al divano di seta, i fiori che guardavano attraverso la finestra chiusa cadere la neve. Del resto, non mi sarebbe bastato che le toilette fossero le stesse di quegli anni. A causa della solidarietà esistente tra le diverse parti di un ricordo e che la memoria mantiene equilibrate in un insieme dove non c'è permesso di sottrarre né di rifiutare nulla, avrei voluto poter finire la giornata da una di quelle donne, davanti a una tazza di tè, in un appartamento dalle pareti dipinte di scuro, come era ancora quel tempo quello di Madame Swann, l'anno successivo a quello in cui termina la prima parte di questo racconto, e dove risplendessero i fuochi arancione, la rossa combustione, la fiamma rosa e bianca dei crisantemi nel crepuscolo di novembre, in momenti simili a quelli in cui, come si vedrà più avanti, non avevo ancora saputo scoprire i piaceri che desideravo. Ma ora, anche se non mi portavano a niente, quegli istanti mi sembravano avere in sé un certo fascino. Volevo ritrovarli identici a come li ricordavo. Ahimè, non c'erano che appartamenti Luigi XVI, tutti bianchi, smaltati di ortensie blu. Del resto, ora si rientrava a Parigi soltanto a stagione molto avanzata. Madame Swann mi avrebbe risposto da qualche castello che non sarebbe tornata che a febbraio, molto dopo il tempo dei crisantemi, se l'avessi chiesto di ricreare per me gli elementi di quel ricordo che sentivo legato a una stagione lontana, a un'annata verso la quale non mi era permesso di risalire, gli elementi di quel desiderio divenuto esso stesso inaccessibile, come il piacere che aveva un tempo vanamente perseguito. E sarebbe stato anche necessario che fossero le stesse donne di allora, quelle le cui toilette mi interessavano, perché quando ancora credevo, la mia immaginazione le aveva dotate di una individualità e di una leggenda. Ahimè, nel viale delle acacie, il viale dei mirti, ne rividi alcune invecchiate, nient'altro che l'ombra terribile di ciò che erano state. Vagare alla disperata ricerca di chissà che cosa nei boschetti virgiliani. Erano fuggite già da molto tempo, mentre io restavo ancora vanamente a interrogare i sentieri deserti. Il sole s'era nascosto. La natura ricominciava a regnare sul bois, da cui era svanita l'idea che fosse il giardino Elisio della donna. Sopra il falso mulino, il cielo reale era grigio. Il vento increspava il Grand Lac di piccole increspature, come un lago. Grandi uccelli sorvolavano rapidamente il bois, come un bosco, e lanciando acute strida si posavano uno dopo l'altro sulle grandi querce che sotto la loro corona druidica e con maestà dodonea sembravano proclamare il vuoto inumano della foresta sconsacrata e mi aiutavano a meglio comprendere la contraddizione insita nel ricercare nella realtà i quadri della memoria, ai quali sarebbe comunque sempre mancato il fascino che deriva loro dalla memoria stessa e dal non essere percepiti coi sensi. La realtà che avevo conosciuto non esisteva più. Bastava che Madame Swann non arrivasse del tutto identica e nello stesso istante, perché il viale fosse altra cosa. I luoghi che abbiamo conosciuto non appartengono che al mondo dello spazio, dove per semplicità li collochiamo. Esse non erano che un esile frammento nel complesso di sensazioni contigue che formavano la nostra vita di allora. Il ricordo di una certa immagine non è che il rimpianto di un certo istante, e le case, le strade, i viali sono, ahimè, fugaci come gli anni.